Allora, molto banalmente, come è nata sì. l'idea di realizzare questo progetto teatrale? No, è un lavoro che è cominciato nel 2010, quindi sono quasi 10 anni. Era il desiderio di collaborare tra me e Cristian Ceresoli, soprattutto, e di dare voce. Sì, c'era questa voce, c'era questa figura che esisteva, che aveva bisogno di parole, e Cristian era una persona giusta che poteva trovarle. Quindi poi abbiamo cominciato timidamente a immaginare qualcosa, lui ha scritto delle prime cose. Ci siamo presentati a un premio dove abbiamo fatto i primi 10 minuti e c'è stato un bel ritorno da parte delle persone che erano lì e ho detto vabbè, andiamo avanti. Ma soprattutto anche qual è stata magari la difficoltà, come è nata l'idea e la scelta di voler recitare sul palco nuda? Guarda, allora, a questa domanda non rispondo più da un paio d'anni, perché spesso viene proprio ridotto tutto a questa questione qua, cioè al titolo e alla nudità, e io invece credo che, poi voi l'avete visto, sì. il momento certo in cui... Esatto, questa è la cosa che dicono tutti. Quindi, secondo me, uno su questa cosa qua deve semplicemente venire a fare l'esperienza di vedere cosa succede, sì, e poi la domanda si cancella proprio automaticamente. Dal mio parere, vai. Cioè, io ho pensato che magari essendo così nuda su una sedia, ti potevi permettere di stare su una sedia e raccontare, perché magari vestivi anche i panni di ogni personaggio mentre lo facevi. Invece, secondo me, se fosse stato vestito non sarebbe bastato stare su una sedia, non stavi neanche ferma, però insomma non sarebbe bastato, secondo me. Invece così bastava. E tu non ti senti anche coinvolta dal fatto che di fronte a te vedi qualcuno che è identico a te? Ah sì, è molto identico. Cioè, a parte il fatto di, diciamo, di diventare tante persone, e anche proprio il fatto che lei è un personaggio che dice anche delle cose orribili, però al tempo stesso tu la vedi lì esattamente come te, e quindi, come dire, devi accogliere il fatto che comunque è un essere umano, ecco, rimane un essere umano. Non... La cosa che a me ha colpito molto è anche il passaggio da magari una scena che ti angoscia ad un'altra che subito dopo ti fa ridere, invece, sì. no? Ti fa scaturire subito la risata, magari anche generale. Ma quella è la costruzione, diciamo, poi anche poetica del flusso di coscienza, perché noi è come se assistessimo a una radiografia del suo cervello, come se tutto si aprisse il suo cervello, noi potessimo seguire i suoi pensieri uno concatenato all'altro, così come facciamo noi, che effettivamente quando ragioniamo passiamo da una cosa angosciante a una cosa ridicola, senza soluzione di continuità, ed sì, è un po' come se non segue un senso logico. No, esatto, cioè tutto per associazione, quindi sì. ci passi facilmente da una cosa all'opposto. Una parte interessante sono i riferimenti marini, no? Sì. Al delfino, al polpo. Un attimo, volevamo capire meglio questo. Ma quello è una specie di paesaggio che ha chiarato Cristian con la scrittura. Cominciato da una piccola cosa, lui spesso fa così, da una piccola cosa, allora poi dopo decide come di creare tutto un affresco intorno, e quindi magari c'è stato un primo riferimento e poi questa cosa qui è qualcosa che rimane come un paesaggio che, per esempio, è comune al nuovo testo che ha scritto Cristian, che si chiama Happy Hour, dove comunque anche lì l'acquario torna in un altro modo, in un altro segno, però volutamente sono dei rimandi, come per dare partire dallo stesso paesaggio, però raccontare un'altra storia. Questo è molto interessante. Bello, magari poi dopo chiediamo anche a lui. Ecco, un'altra domanda, magari come si spiega anche il successo all'estero, e soprattutto se poi nella traduzione magari viene a perdere qualcosa, tipo l'inno, viene ripreso l'inno italiano. Tutto i riferimenti, diciamo, alle camicie rosse, alla storia del risorgimento italiano rimane, con qualche, se vuoi... Nella traduzione Cristian ha aggiunto un paio di cose in più, tipo per specificare quelli che hanno fatto l'indipendenza, cioè sì, certo. giusto per dare però al tempo stesso è un testo comunque che è privo di riferimenti geografici precisi o temporali precisi, e quindi in realtà in tutti i posti dove noi siamo andati a farlo le persone l'hanno sempre accolto come qualcosa che parlasse di loro, no, anche se i riferimenti all'Italia ci sono, però sono i riferimenti, diciamo, a un'unità nazionale generica che può essere quella di qualsiasi paese europeo, e quindi la cosa che ci ha colpito è che comunque tutti lo vivono come se noi stessimo parlando del loro paese, anche nei mitici paesi nordici che noi pensavamo vabbè, ma qui non ce l'hanno mica questi problemi, invece sì. Come scherziamo spesso, Cristian, diciamo che noi italiani siamo sempre l'avanguardia della merda, così come abbiamo inventato il fascismo, abbiamo inventato anche questa dittatura contemporanea dell'estetica. Però...